24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati a questo appuntamento con 24 ore in Europa. Un saluto da Anna Marino. Condanna della violenza e delle cause che l'hanno provocata è stata espressa dal Presidente del Parlamento Europeo e dallo Speaker della Shura Saudita dopo un incontro a Bruxelles. Martin Schulz ha condannato anche la distribuzione di un film blasfemo ed umiliante per i sentimenti di milioni di persone, sottolineando che comunque la violenza non può essere mai accettata e ha invitato i rappresentanti pubblici a prendere le distanze da film, libri o caricature. Abdullah bin Mohammed al-Sheikh, dal canto suo, ha sottolineato la necessità di sradicare ogni causa di violenza. E non si fermano le polemiche e le tensioni in Europa e nel mondo. Stato di massima allerta in Europa e nel mondo arabo alla vigilia di un venerdì che si preannuncia caldo. Alta tensione soprattutto in Francia dopo la pubblicazione delle vignette satiriche su Maometto da parte del settimanale francese Charlie Hebdo, una iniziativa arrivata nel pieno della bufera per il film Anti-Islam. Domani giornate di preghiera nelle moschee e il governo di Parigi per precauzione chiuderà ambasciate, centri culturali e scuole francesi di 20 paesi musulmani, mentre sono state già annullate lezioni nei licei di Egitto e Indonesia, vietata dalla prefettura anche una manifestazione prevista per sabato davanti alla grande moschea di Parigi. E intanto minacce e intimidazioni sono arrivate alla redazione del settimanale francese, che è stato denunciato per incitazione all'odio, mentre il partito dei fratelli musulmani egiziani ha chiesto alla Francia di prendere misure decise e urgenti contro Charlie Hebdo, così come ha fatto già per le foto di Kate Middleton. Nel mondo islamico continua l'ondata di proteste da Kabul a Teheran a Islamabad e intanto Sudan e Singapore hanno chiesto il blocco dell'accesso a YouTube per impedire la diffusione del film che ha provocato l'ondata di rabbia. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ieri a Francoforte una festa in vista dell'inaugurazione della futura sede dell'Eurotower. Il trasloco nella nuova struttura, non ancora finita, dove si trasferiranno i circa 1500 dipendenti che oggi lavorano in diversi edifici, è previsto per il 2014. Due nuove torri potranno ospitare circa 2300 persone. L'investimento complessivo, secondo i dati del 2005, è di 500 milioni di euro. Non dovrebbe essere superato, il nostro corrispondente Alessandro Merli. I governatori di tutte le banche centrali dell'area euro hanno messo le bandierine di tutti i paesi in una sorta di albero di Natale che verrà issato proprio sulla cima del nuovo edificio della BCE. Per la verità si tratta solo della cosiddetta cerimonia della copertura, che qui in Germania è molto sentita. L'edificio non sarà finito per altri due anni. L'unica curiosità è che il presidente della BCE Draghi non è venuto perché aveva un altro incontro, però è stato difeso a spada tratta dal sindaco di Francoforte, che nel suo discorso ha detto che Draghi non è Mefistofele, in risposta a un attacco che nei giorni scorsi era venuto dal presidente della Bundesbank Weidmann, proprio citando Goethe. Vediamo ora com'è andata la giornata in borsa ieri in Europa. Le vendite tornano a colpire listini del vecchio continente sui timori di una recessione in Europa e rischi legati alla situazione spagnola, nonostante il buon esito dell'asta dei titoli di Stato. A complicare il quadro ha contribuito la flessione dell'attività manifatturiera in Cina, in calo per 11° mese consecutivo. Milano è arrivata a perdere oltre il 2%, ha chiuso sopra i minimi, meno 1,68%, mostrando in quattro sedute un ribasso del 4,7% circa. È continuato lo scivolone delle banche, penalizzate dal rialzo dello spread e dei rendimenti sopra il 5%. MPS e BPR hanno così perso il 5%, BPM e il Banco Popolare oltre il 4% e Mediobanca il 3,5% dopo i conti che hanno evidenziato un'utile inflessione del 78% a 81 milioni di euro. I realizzi hanno colpito il settore auto, in scia all'allarme utili della tedesca Daimler, meno 2% a Francoforte. Fiat ha segnato meno 2,3% e Pirelli meno 3,2%. I titoli migliori su FTSE MIB sono stati Lottomatica più 2%, Autogrill e Impregilo. Livia Zancanera da Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24 Ore. Le prospettive per l'andamento dell'occupazione nell'Unione Europea nei prossimi mesi restano negative, soprattutto per il settore industriale in diversi paesi, tra cui l'Italia. E quanto emerge dall'ultimo rapporto mensile sul lavoro della Commissione Europea, e restano comunque differenze profonde all'interno dell'Unione Europea, dove a luglio è stata toccata la cifra record di 25,254 milioni di disoccupati. Intanto ieri nuova giornata difficile anche in Grecia per lo sciopero contro i tagli imposti dal governo. I tre partiti della coalizione del governo greco si incontreranno il 13 per cercare un accordo sul pacchetto delle misure di austerità richieste dalla Troica in cambio di una tranche di 31 miliardi di aiuti. Solo 2 miliardi superano le due parti dall'intesa con il ministro delle finanze, greco Yannis Sturnares, che si oppone ai nuovi tetti salariali nella pubblica amministrazione. Se si troverà l'intesa, il governo ha intenzione di usare procedure di urgenza e far approvare il pacchetto composto da un solo articolo in Parlamento la settimana prossima. Intanto il premier greco Anthony Samaras ha in programma un volo a Roma per incontrare Mario Monti, dopo la visita di domenica di Papoulias al presidente Napolitano, e sabato mattina sarà ricevuto in Vaticano dal Papa. Ma ad Atene il clima sembra tornare quello preelettorale, con scioperi dei trasporti, con i sindacati che si oppongono all'aumento delle tariffe e chiedono trasporti gratuiti per disoccupati, studenti e pensionati a basso reddito. Vittorio Darolde, Radio 24, Sole 24 Ore. Il vertice Europa-Cina a Bruxelles non è stato seguito dalla conferenza stampa che di solito si tiene al termine dei summit bilaterali. Le condizioni, le richieste poste da entrambe le parti non hanno reso possibile lo svolgimento di una conferenza stampa che originalmente era prevista, ha detto Dirk De Backer, portavoce del presidente europeo Van Rompuy. Il caso, che si ripete, ha sollevato le proteste dell'Associazione dei giornalisti a Bruxelles. È un vertice sino-europeo ricco di ambiguità. L'Unione Europea e la Cina hanno crescenti rapporti economici, ma dal punto di vista politico le incomprensioni restano. Il primo ministro cinese Zheng Jiabao, in una dichiarazione pubblica, ha chiesto tra le altre cose ai partner europei di abolire l'embargo di armi imposto dopo i moti di Tiananmen del 1989. Anche da un punto di vista commerciale vi sono dubbi. Gli europei hanno aperto un'indagine contro i cinesi, sospettando dumping nel settore dei pannelli solari. Ieri esponenti della Commissione hanno voluto gettare acqua sul fuoco sull'importanza della vicenda, pur di non mettere a repentaglio il vertice. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Si augura che le elezioni legislative del prossimo ottobre avvicinino Kiev a Bruxelles il presidente polacco Komorowski, che ha incontrato il suo omologo ucraino Viktor Yanukovych. L'Ucraina deve scegliere, ha detto, tra l'adesione all'unione doganale con Russia, Bielorussia e Kazakistan e una maggiore integrazione europea e l'incarcerazione della leader dell'opposizione ucraina, Yulia Tymoshenko, considerata da taluni di natura politica, rischia di bloccare il processo di integrazione europea dell'Ucraina e la ratifica di un accordo di libero scambio. Sospendere immediatamente il rilascio delle autorizzazioni per la coltivazione di varietà di mais geneticamente modificato come il MON 810 della Monsanto e la patata Amflora della BASF e per l'importazione di mais e soia transgenica. Questa è la richiesta avanzata dalla Commissione europea dal vicepresidente della Commissione Agricoltura dell'Europarlamento, l'esponente verde francese José Bové, dopo la pubblicazione di uno studio che evidenzia gli effetti tossici che il consumo di prodotti OGM ha determinato sulla salute delle cavie animali. La Commissione europea si avvia a testare le proposte della Apple e di quattro editori, Simon & Schuster, HarperCollins, Hachette, Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck, per chiudere le indagini avviate a dicembre sul cartello dei prezzi per la vendita degli e-book, che ne avrebbero fatto salire i prezzi. Se la prova a mercato sarà di esito positivo, l'antitrust europeo renderà legalmente vincolanti gli impegni proposti. Le parti interessate hanno ora un mese di tempo per sottoporre a Bruxelles le proprie osservazioni. I Balcani occidentali sono una regione di vitale importanza per l'Unione Europea e per l'Italia e noi siamo totalmente impegnati nel favorire il processo di integrazione europea del Montenegro. Lo ha sottolineato il ministro degli esteri Giulio Terzi al termine di un incontro alla Farnesina con il suo omologo montenegrino Kaluderovic alla sua prima visita ufficiale all'estero. Nel corso dei colloqui, ha riferito Terzi, si è fatto il punto sulle crescenti potenzialità politiche dei paesi della regione nella prospettiva di accelerare il processo di avvicinamento dei Balcani all'Europa e alla NATO. E con questa notizia è tutto, un saluto da Anna Marino. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.